quello di Bologna, piano piano gli hanno fatto trimpallare qualcosa, dicevo, oh, prova a cantare anche tu, l'hanno fatto diventare cantante. Salvità spericolata, c'è una vita come quelli di Mario, ce n'è. Andiamo, andiamo, canta. Sentiamo Luca, un grande cantante sassarese, musicista, boh, non riesce a sfondare, vai Luca. Via, carità. È proprio Achille Lauro, proprio, guarda, fa... non lo so, per me non è un cristiano. Ma io, guarda, ci sono state delle persone particolari, non so se vi ricordate Anna Oxa, Donatella Rettore, parliamo di 30 anni fa, hanno fatto un po' di scena, nel senso come si presentavano, però cacchio erano cantanti, quando li sentivi cantare, a parte la bellezza di Anna Oxa, quella non la cerchiamo, però erano cantanti, scrivevano, cioè come si chiamavano, cantavano come dei cantanti, quando senti questo qua, ma che cacchio, da dove è uscito? È questo che fa ridere, cioè si sveglia la mattina, uno c'ha degli incuzzi, dice beh, lo facciamo, lo produciamo questo qua, inventiamolo cantante, gli scrivono tre fesserie, anzi tra parentesi molte se le scrive lui, di queste parolacce, cose strane, quella Rolls che parlava solo di droga, e buh, i ragazzini si sentivano estasiati, entusiasti di questo scemo di guerra, questo che fa ridere, quando lo faceva Renato Zero, ma Renato Zero stiamo parlando di un musicista, di un cantante, una persona che ha una competenza, a parte che scriveva delle poesie, poi può anche non piacere, ripeto, perché io ascolto tutto, poi posso dire no, non mi piace Renato Zero, però la qualità si vede e soprattutto si sente, ma quando io vedo questi personaggi qua, da dove cavolo ne sono usciti? Stiamo decadendo sempre di più, ogni anno che veramente lo guardo Sanremo, però per curiosità dico accendi un attimino, giri, ma quando vedo questi, mamma mia, una vergogna, di nuovo a te Gianfranco. Sì, adesso lo stavo vedendo, in effetti è costruito perché c'è tutto uno staff dietro che lo trucca in maniera pesantissima. E niente, ce n'è anche un altro che mi sembra anche più, come dire, più esagitato, che fa parte, non so se sia un duo, se si bacia, non si bacia. Comunque, è così, costruito di brutto proprio, hanno creato un personaggio, c'ha più tatuaggi questo che un giornale, guarda, come corpo. Comunque, vabbè, era solo per l'intervento, comunque, riprendete pure, io rimango in ascolto fino a un po', poi chiudo direttamente. Buonanotte, buona serata a tutti. Sì, c'è già te lo mando il CD comunque di Achille Lauro, dai, magari ti piacerà. Vai Luca. E io, mi sento strano, mi sento la febbre, non ho febbre. Mi sento come se avessi la febbre. Freddo non ne ho, non farò mai le ossa, Gagabattarone, dice Achille Lauro. Ehi, Luca, ha pigliato troppo sole, no? Però ha fatto una canzone molto ma molto bella, non sua, lui l'ha riproposta, l'ha fatta fatta da lui, bellissima canzone Comunax, Sweet Dream si chiama, una canzone bellissima, lui l'ha riproposta e quella canzone non è brutta, perché è bella la canzone, non perché la canta lui, la canta un po' in italiano e poi ripete qualcosa in inglese, cercatela e diciamo è piacevole da ascoltare. Mamma mia, me lo posso immaginare. No, non è brutta, la Sweet Dream è una canzone molto famosa, diciamo chi la faceva non era una buccia di gioga, era un gruppo abbastanza importante, diciamo, ha fatto, non dico la storia della musica, però è stata molto molto ascoltata e anche ballata in discoteca, anche se era una canzone non proprio da discoteca, un po' rockeggiante. Ok, vediamo un attimino di pausa, se qualcuno vuole entrare, lasciamo 2 secondi di bianco, se no riprendi tu Luca. Vai Luca. Ehi, ehi. Vabbè, che ci vuoi fare, purtroppo, un casino, questi cantanti, lo ripeto un attimino, 2 secondi, arrivo subito. Capa. Tanto tornando al discorso nostro delle cazze, delle cose del genere, io ho i cuni da 15 e ad alta efficienza con i Twitter a compressione, sono cassoni grandi, però di alta fedeltà stiamo parlando, perché sono stati costruiti apposta da un progetto, erano delle casse da discoteca della RCF, sono stati modificati tutti i crossover, i componenti sostituiti, e più ho delle bestie di casse, sono meno efficienti, ma io ho 100 e passa dB di efficienza, di sensibilità in quelle casse, con 5 watt, con un amplificatore valvolare ti butta l'interno alla casa, però se tu le ascolti dici stai ascoltando l'alta fedeltà, poi ci sono le casse, molte casse di queste per fare serate che sono caricate a tromba, cose del genere, però è un suono sporco, non è un suono di alta fedeltà, piacevole nel senso a ballare, senti il malmasso, boom boom boom boom, però non è un suono lineare, pulito, quando senti la voce non è naturale, è un pochettino sporcata. No, ci sono degli impianti buoni, che non è così, no, non è così, no, vabbè, che funzionano veramente bene, sono alta fedeltà, sono, ma alta fedeltà è vero, però, ce ne sono invece, quelli che costano poco, me, sono un po' così, ma chi ci pone, Rubi? E certo, esistono anche degli impianti di altissimo livello da concerto, però parliamo di usi normali, le casse che le metti sul piedistallo a due vie, a tromba, con tutta la tromba, il buffer ad alta sensibilità, il 90% dei casi, quelle già amplificate, non è che sono granché come resa, toccane un bel perché le senti forte, però a livello di qualità musicale non è paragonabile a un impianto di pari prezzo, ma vabbè, di pari prezzo no, di pari prezzo no, non fai niente, però con un prezzo un po' superiore di casa, non è neanche paragonabile di quelli piatto parlando. Se poi mi parli di impianti di certi livelli, di migliaia e migliaia di euro da concerto, a quel punto mi tolgo il cappello, però devi spendere decine e decine di migliaia di euro per avere l'alta fedeltà e la qualità, quelli di impianti di Nareo, eccetera eccetera. Sì, certo, però io ti sto dicendo che anche su quella roba lì devi spendere, cioè se vuoi roba cioè, che veramente che ci senta bene qua, io ti faccio sentire, cioè, ti faccio entrare in via Roma, come si chiama? All'Enjoy. Senti quell'impianto e poi il cazzo mi dirà anche a basso volume e poi mi dirai cazzo avevi ragione, quello è tutto FBT di ultima concezione, ma è una cosa paurosa, Quello è il padrone è mio nipote insieme a un altro. Tu mai entrato ci sei a sentirlo? L'ho sentito a basso volume, non alto volume, così di passaggio, ma diciamo già qualcosa curato di cosa, però se tu guardi tutti quelli che si mettono nel bar, nella strada, con quelle casse estreme e cose del genere, a livello gusti di suonaggio va bene, ma non parliamo di alta fedeltà. Fra lì dentro ci saranno 20-30 mila euro di impianto. Vabbè, ma stiamo parlando già di una cosa diversa, io mi stavo riferendo a questi impianti PA, diciamo quelli che si mettono a cantare, a fare, come si chiama, le serate furia, la pepe via Roma, centro storico e cose del genere, poi quando senti la qualità, la gente si accontenta, non è una puttinuta, però, perché tanto c'hanno tanti problemi, oltre che cosa, ci sono problemi di base, di microfoni, di riverberi, un sacco di cose, però quando fai un impianto fisso, tipo quello che hai nominato tu, diciamo di lì c'è anche una cura di tante cose, di assorbenti, di posizione, perché le casse vanno anche posizionate, non è piglie piatti che usano a meno a fu. Io mi ricordo quando si saliva al Blue Star, tu non so se l'hai conosciuto, non adesso, perché sicuramente l'impianto l'ha modificato, che montava l'Eclipse di lì dentro, non c'era per nessuno, aveva impianto da paura, una qualità sonora da spaventosa, pochissimi impianti sentivi così, nelle altre discoteche era solo a spaccarti i timbari, pur avendo lo stesso suono, intensità di suono, però non era fastidioso, perché tu sentivi la musica, nelle discoteche andavi al Marini, andavi al Pebai, andavi al Biblos, che poi si chiamava prima Mandingo, ti spaccavano i timpani, ne uscivi assordato, eppure la potenza del brutale era superiore a quelli lì, però perché c'era un impianto fatto da gente che lo sapeva fare, coso audiolinea di coso, Mario Nottari e compagnia cantante, ingegner Meloni, c'erano dei professionisti. Beh certo, la roba buona era anche. Comunque io ho sentito anche quello del set e non è da meno, campo di che proprio un bel suono c'hai. Sì, ce ne sono tanti di posti che vanno, vai da R se vuoi sentire e poi mi dici come si sente. Io lo conosco già. E vai di lì in quegli studi, ma senza potenze esorbitanti. Io sono andato in uno studio di registrazione, piccolino, tu dovevi vedere il caso che c'aveva questo ridicole, le Canton c'avevano col sub. Che di suono è? Da dove viene questo suono? Dalle casse piccoline da scaffale, col sub sotto, mi sono messo le mani in testa, ho detto cacchio, ho visto, senza spendere spendere cifre esorbitanti, c'aveva un suono pulito, dettagliato, e c'è gente che spende migliaia di euro ed è una gagata per dire. Poi c'è gente che spende, però sa anche come spendere. Io per esempio non spenderei mai soldi in quelle audio costruzioni, mai sentita la 10 impianti da gas così. Se c'è un bel salone, se devo mettere, ci sono quelle che stanno vendendo adesso, che sono superiori a quella roba lì, secondo il mio parere, i miei punti di vista, quelle che hanno il sub più, tipo lo conosci l'FBT Virtus, una cosa del genere, chi si bompane? Sì, ma tu deve essere tutto equilibrato, l'FBT c'ha una storia dietro, no? Ha fatto l'amplificazione da una vita, però normalmente fa PA, non fa uso domestico, cioè sono ingombranti, casse abbastanza grosse, come poteva essere i vecchi RCF che facevano la Montardo, eccetera eccetera, di cose del genere. Non sono nati per fare usi domestici, perché ci vorrebbero degli ambienti talmente grandi, posizionamenti, strutture di cose per assorbire il suono. Io le casse mie, se non le orienti bene, se non le distanti dal muro, il suono lo senti, non dico una gaggata, però dici cavolo, no, cambia completamente come le posizioni, ti devi mettere in una posizione esatta e ascoltare. Se le metti così, cioè, tu dici ma cos'è, tutto il suono sembra sporco, il basso, però cacchio, quando sollevo il basso ti senti lo stomaco che ti si prende il colpo, non è col basso bru, bru, bru, proprio secco, pieno, che equilibrato. Perciò queste casse norvegesi che le ho prese, quando le ho prese? Cioè, l'anno scorso, due anni fa le ho prese, che ho fatto un affare, sono casse alte 1,60 m, se tu le senti con due woofer da 32 sono, tre vie, sono una cosa enorme, pesano 60 kg, se tu le senti suonare ti metti le mani in testa, e per dire nessuno le conosce, sono casse poco conosciute, perché in Italia ne sono venute poche, e poi le metto le a fianco a quelle grosse che ho, diciamo da concerto sono quelli, ma hanno il basso da 38 e tweeta due vie, però è tutto calibrato, fatto scientificamente, studiato, il volume calcolato eccetera, il reflex, il cono, come si chiama, il canale di reflex, l'apertura reflex, è stato ridotto il volume perché è stato un adattamento delle casse da discoteca della RCF, la RCF fa degli ottimi prodotti, e sono stati modificati i componenti, e se tu le senti dici cavolo, non ho niente di speciale, mi ripeto, perché ci sono impianti che fanno 10-0, però nel mio piccolo con quei componenti do fastidio a un po' di gente. E poi se vuoi ascoltare per fare rumore c'ho le casse della Toa, che quelle sono per uso esterno, diciamo divertimento, tipo quelli che usano per fare le serate, cose così, i karaoke, cose del genere, quelle fanno un bel rumore, però neanche minimamente ti puoi avvicinare alla qualità di quelle casse che sto dicendo io. Mi rometti, ti ho dato una foto per farti capire cosa intendo io. No, ma io sono abbastanza inoltrato, c'è da dire che 20 anni fa la tabella era diversa, c'erano pochi marchi, adesso da quando sono entrati i cinesi, vi sono 2500 marchi, io dagli anni 70, che se, vabbè 70 non esageriamo, da diciamo al 78, appassionato di alta fedeltà, abbonato alle riviste Suono e Stereoprimi, sono fatto una cultura musicale, adesso quando vengono a vedere gli entrati dice chi è questo, mai sentito, non lo conosco, prima ce n'erano 20-30 di marchi, per dire di amplificazioni, adesso ce ne sono 3000 di marchi, cacchio, ogni tanto ne c'è uno nuovo e dice fammelo sentire come va, poi lo apri ed è un giocattolo. Quelli audiocostruttori li conosco benissimo, loro pompano su Macintosh, anche se sono marchi eccezionali, però ce ne sono tantissimi, però l'altra parte vuole ascoltata, cioè devi provare e sentire, fare delle prove, delle comparazioni, perché a me mi piace un tipo di suono perché ascolto quel genere di musica e a quel livello musicale, magari altri dice che non gli piace, l'ascoltano. Io avevo le Infinity, non so se le conosci, di casse eccezionali a tre vie, chiamate un amico e me ne ha comprate uno che vende di questi prodotti, lui aveva le GBL fissate con le GBL, le ha sentito le Infinity, se le ha tenute per lui, ha detto no, però le Infinity non erano molto sensibili, devi ascoltare per dire musica classica, musica di un certo genere, sono speciali per dire, però per il genere che ascolto io non andavano tanto bene, li facevano 10-0 quelle che ho adesso, però le Infinity avevano un suono da paura, però non erano sensibili, cioè sfiguravano in confronto a quelle che ho adesso. Avanti anche. Le GBL tanto di cappello, eh. sono buonissime, sono come casse, tanto di cappello proprio. E poi cioè per il genere che vanno le Alto, vanno bene le GBL, vanno bene le FBT, vanno tutte le RCF, tutte quelle marche per il genere che facciamo noi e così. Sì, ma se tu vai a sentire un concerto e poi senti le casse, per dire, che utilizziamo noi tutti i giorni per fare le serate e cose del genere, e poi senti un concerto e vedi quegli impianti di amplificazione da centinaia di migliaia di watt con delle cose spaventose, delle rese da paura, cacchio, quelle linee re eccetera eccetera, non parlo degli anni 80 quando c'erano quei cazzoni della, come hai detto tu, GBL, Martin, Audio, Electro Voice eccetera eccetera, che hanno fatto la curia. Adesso vedi degli altoparlantini che tu dici, ti metti a ridere, ma c'hanno delle rese spaventose, delle tenute in potenza spaventose. Ho visto impianti da 25.000 watt, dici, cacchio, qua ci sono 25.000 watt, sono quattro altoparlanti, ti spaventi la resa sonora che c'ha. Ma infatti è quello che ti sto dicendo io, e guarda che anche quei marchi lì gli hanno fatte le cose così, si sono aggiornati, non vendono solo quella roba lì, mi te ne ho mandato uno io me, dell'FBT, che c'è una cosa spaventosa, cioè, e non è grande, è facile da montare, tutte cose. Cioè, quei marchi lì hanno sempre seguito queste cose qua, c'hanno tutti impianti della RE, Martin c'ha impianti della RE, prima erano caricati a tromba, c'erano quei cosi lì, adesso sono fatti, sono la RE, anche loro, come se FBT lo stesso, ce l'hanno un po' tutti, ce li hanno, la roba lì. Ma tu ti ricordi quando è uscita, prima della RE, erano usciti i Turbo Sound, sicuramente li ha conosciuti, tutti gli impianti di cose di applicazione erano tutti con Turbo Sound, adesso stanno ritornando indietro quelli, i sistemi all'antica, con i crossover elettronici, con i muti amplificati eccetera, non più attivi come adesso, perché adesso sono tutti amplificatori dedicati direttamente dentro la cassa. Sì, lo so, l'ho conosciuto, ma gli spazi oggigiorno è meglio la RE, perché vai, poco spazio, occupa poco spazio, da montare più facile, cioè, ci sono un sacco di discorsi, che di carica da tromba è un casino, era. Allora, io mi ricordo quando è venuto, io di concerti di amplificazione più esagerata, quando è venuto Edoardo Bennato a Sassari, c'aveva le Martin Audio, da paura, e c'aveva 25.000 watt, che allora erano un'esorbità, perché adesso si arrivano anche a 3, 4, 5, 700.000 watt, e Vasco Rossi quando ha fatto il concerto, non ricordo perché cacchio l'ha fatto, non mi ricordo, adesso non mi viene neanche in mente. Comunque, prima con 25.000 watt, con quei cassoni spaventosi che ci facevi 10 piani di casse, ne buttavi in terra il corso. Adesso hanno potenze esorbitanti, però sono molto più concentrate, il suono sino a, per dire, a 300, 400 metri perfettamente, ti sposti per dire di 10 metri e quasi non lo senti, sono talmente calibrati, per cui non hanno più problemi di inquinamento acustico, come prima quando facevano i concerti in certe zone non te li permettevano perché c'era troppo rumore, lo sentivi da 10 km, adesso tu puoi farli anche al chiuso, con potenze esorbitanti e non disturbi nessuno, solo quelle persone che ci sono di lì dentro. Dipende pure, dipende, perché quelle lì, il sistema LRI è fatto per andare molto più in là, è fatto con meno potenza per andare molto più in là, quando era giunto Ligabue, ma sì, dove era? Cioè, era proprio vicino, minimo da Casadoglia si intendeva una cosa spaventosa, si sentiva la latte dolce, ti puoi immaginare. Sì, però c'è da dire adesso, siccome sono molto concentrati il suono, non è molto direttivo, nel senso, tu fai in modo, c'è una fila larga 50 metri per 100 metri, per 200 metri, larga 50 e lunga 100 metri in uno stadio, diciamo, normalmente, tu ascolti in quel postettino lì, ti sposti di 60 metri a sinistra o a destra, e quasi, cioè lo senti, certo che lo senti, però perde tantissimo, perché sono molto concentrati, molto direttivi, è tipo quando c'hai, tipo su di, una pila, li metti una lente e te lo restringe il fascio, e così stanno facendo con le cose, hanno capito che fare quel tipo di discorso lì, quelli punto a punto si chiama, tipo le antenne direttive. per cose, lavorano molto sulla direzionalità della topana, li mettono molto in alto, inclinati verso il basso. L'hai visto, gli Lainarei sono in alto e sono inclinati verso il basso, non hanno più bisogno di metterli sovrapposti come prima, come succedeva con i quicassoni di una volta. Adesso li mettono tutte le tonalità, diciamo le frequenze alte e medie, le mettono molto in alto, inclinate di 30-40 gradi verso il basso, e tu ti metti a 100 metri, è come che stai ascoltando a 10 metri, mentre prima sotto il palco te ne spaccavi i timpani, era lontano a 200 metri, quasi, non dico che non lo sentivi, però era un suono distorto, rimbombante, in ritardo, mentre qua c'hanno tutto perfetto, c'è tutto il computer che gestisce dai primi metri agli ultimi 100 metri, il suono è identico. Quando ha fatto il concerto Vasco Rossi, c'erano degli scienziati di acustica, hanno fatto dei lavori allucinanti, e ci avevano, mi pare, 500-600 metri di campo sonoro, eppure l'ultimo che c'era giù sentiva come il più vicino al palco. C'è tutto il computer che ti calcola i ritardi, i riverberi, eccetera eccetera, e cazzo, diventa una cosa allucinante, ormai è tutto computerizzato, mentre prima c'erano più grande, era nel caso e ti toccava, non è più così. No, hanno delle recede, ma già pompano gli amare di Zione. Prima erano, prima il suono si disperdeva molto, adesso non è più così, adesso il suono è tutto lineare. E certo, quello che tu dici. Aspetta, vediamo se è rientrato Luca, avanti Luca. Sì, sono qua. Allora mi vado in RD che ti danno quelle specie di turri, li hai visti che ci mettono le chiavette, si illuminano tipo per fare karaoke, per attaccare il microfono, 2000 watt, 3000 watt, poi vai a sentirle, c'hanno 100 watt, ma esagerando Buglioni è una torre che sarà un metro e mezzo di altezza, tu mi vedi la potenza dichiarata, già tocca, però effettivi saranno, io penso, 80 watt, fai 100 watt, c'hai il woofer da 32, c'hai due woofer da 32, si illumina tutto a quanta, vedi, l'ho presa a prezzo di regalo perché era l'ultimo che era rimasto da Conforama, c'aveva dei difetti, mi ha detto guardi è l'ultimo che c'era in esposizione, se la vuole, però poi non c'è garanzia, ha detto no, e me l'ha data a un prezzo di regalo, dai. E tu devi sentire la potenza dichiarata e poi ti buona ridete, mandi i live 2000 watt. Vai, è mondo, cioè così, sì, è mondo, sì, ha detto bene, però ci puoi mettere, puoi scresciare perché ci metti, per dire, il CD, ci puoi mettere la chiavetta, cioè tipo io ho la console per fare mixaggio e cose del genere, e c'hai tipo un piatto sopra che ruoti, puoi fare lo scratch, puoi fare un sacco di giochetti, c'è una specie di mixer con effetti digitali, puoi mettere la mitragliatrice, le sirene, una marea di roba ci puoi fare sopra, e puoi metterci anche, sovrapporre anche cose tue, se c'hai altre chiavette puoi mettere altri effetti, è tutto scenografia, tu lo vedi, si illumina a ritmo di musica, gli altoparlanti tutti illuminati, è proprio tipo la giostra, avrei bisogno che andare la giostra buona nella musica con tutte le luci, la cosa vuole, però altra fedeltà non ce n'è lì. Ah, sono dei giocattoli, fine minita. Vabbè, io devo chiudere, dai, perché devo andare un attimino giù. Ci sentiamo. Avanti Luca. Sì, io sono qua. Ragazzi, sei distrutto, ma rimani nel culto, adesso, ma stai andando, Antonio. È sceso giù Antonio, dai, anche io attacco adesso lui. Dai, ci sentiamo, un saluto a te, Antonio che è andato via, e tutti gli eventuali amici, se c'è qualcuno sul canale 10, io interrompo, che devo fare qualcosa, dai, ci sentiamo, ciao ciao di nuovo. Sì, ciao Antonio, ciao Roberto, ciao, buonanotte. C'è qualcuno? Ciao Antonio. Oh, buonasera a te. E allora, mangiato? Aspetta un attimino che sono col microfono tappato. Ma sai che stavo salendo il volume, cosa hai detto te? Ho detto che avevo il microfono tappato, avevo la radio accesa, però col microfono tappato dal vero. Non ti mai, dimenticato bene. No, io le radio le tengo tappate, se poi ne accendo qualche una, l'accendo, lo scopro e poi niente, se devo modulare apro il tutto, capito? E riparo un po' dalla polvere. Allora, sei andato al mare? Tappa, sono fatto il bagno. No, a dove sei andato? Ah, niente, c'è un Leonardo era a Rotonda, ci stava benissimo. Mi immagino, io ero qua a casa. Vabbè, ho fatto dei lavori a casa perché se non ne approfitto la domenica, entro l'arco della settimana sono sempre impegnato, quindi per fare le cose a casa mi devo privare un pochino della domenica, ma fino adesso, poi vediamo. Vabbè. Poi, appena che ve ne andate anche voi al mare. Sì, dai. Vediamo. Ciao. La piscina ci avevi tu, no? Sì, la devo riempire, è a metà adesso, però vuole pulita e poi la riempio. Ma cosa di quelle a laghetto, no? No, di quelle terme, diciamo, 7 litri per 3. Allora, quando non hai gara, dico la doglia. E allora? Ciao. Ma di gufi ha bisogno. Ehi, oia. Ma comunque, era una bella giornata, adesso che era bello il mare. Era un po' agitato, era. Ma poi alla fine già. Non era male, dai. Vabbè, dai. Si mette un po' di venticello, c'era. Ma al mare diciamo che non dispiace, è un po' di venticello, che c'è già troppo caldo, poi ti fa sudare, invece con un po' di venticello ti invoglia anche a stare un pochino di più sotto il sole. Capa. Non dispiace, no, io sono stato benissimo, ti sono con ta moglie. Già va bene. Capa. Ho fatto il bagno, ma a me già mi piace già. A chi è che non piace? Non è che, vabbè, ti ripeto, non ho cosa da fare a casa, quindi sto facendo. Poi quando finirò, anche io mi attingo ad andare al mare. Ciao. Ma dove vai tu? A Pratamona o anche un po' più in là? No, Pratamona è raro che ci vado, però più che altro. Stavo dicendo, no, è rara la volta che vado a Pratamona, solitamente vado a Alghero, aspetta, ci siamo, ogni tanto una chiamata. Stavo dicendo, vado a Alghero un po' sentino, boh, bisogna vedere come la voglia che ne ho. Andrò, ma Alghero a me non piace tantissimo, la verità è. Ma io ho fatto tanti anni ad Alghero, soprattutto quando c'era Penetriamo Comuni che non era a parco, lì facevamo dei campeggi, lì era strano lo stesso. Cappa, già va bene, là. Sì, ma la cosa che qua è vicino, molte volte vanno fa 20 chilometri, andiamo qua. Vabbè, ma tu non c'hai la patente tu? Me la sto prendendo. Cappa. Se non ti avessi preso una di quelle macchinette senza patente, per due c'è anche il cofano, va benissimo. Ma te l'avevi sempre pigliata la patente però. Perché ci vuole la patente anche per le macchine che sono targate così tipo la moto? Certo che sì, ci vuole la M e ci devi prendere. Non lo sapevo. Se tu guardi nella tua patente, se l'hai rinnovata da poco, nella tua patente c'è scritto che poi c'è la categoria M, perché la mettono adesso. Non so, io vabbè ho le patenti, quella moto senza limite di cilindrata, quindi non lo so. Ma ci dovrebbe essere anche quella, perché da... mi pare dall'anno scorso, mi pare l'hanno introdotta, deve c'è anche quella categoria. Beh, ma vabbè, mio figlio, sono proprio a credere, ma penso che per i 125 sarebbe a prendere a 16 anni, se non sbaglio. Quanti anni ha? 15. Mi sa che quella del ciclomotore ci può prendere, boh. 30 domande, deve studiare un po' e via. Se invece quando sarà grande sono 40. Sì, vabbè, ma è meglio che sappiano queste cose, tanto la strada è una giungla, quindi deve sapere cartelli e quant'altro, precedente e così via. Lo conosci a Coggio? Ma chi so, a Ciccio, quello che sta sempre in Viale Dante, a quello gli hanno ritirato a me. No, non lo conosco. Gli ha detto, ciao capo, cioè, che cartello è questo rovesciato, quello della precedenza? Ed non gli ha saputo rispondere. Gli ho detto va bene, la biglietta per la ritirata. Ah, perché ce l'aveva già? Ha fatto il rinnovo praticamente. È come quella che hai tu, ci fai il rinnovo, è uguale. C'aveva la M, però lui l'ha presa. Quando allora ti ridati a Negucci, capito? Che non dovevi studiare. Ho capito, capito. Hanno crepato l'anno. Ma io ho conosciuto uno, un signore grande, che lavorava con un mezzo, con un furgone, ed era da ragazzino senza patente, si è preso la patente a gran età. Ma credo che quando si è preso la patente aveva intorno ai 50 anni. Si tracciavano, ma adesso se ti trovano ci sono sanzioni pesanti. Da cui no, cioè, non li puoi pigliarmi, a Roma con un paio d'anni non la puoi più pigliare. Anche il figliolo di una persona che ti ha zinchiverati dotti. Non so se l'hai letto in giornale, ha combinato un casino, ha combinato. Decido pure la macchina di rubabbo. Per un paio d'anni non ha potuto neanche andare a scuola a guida a pigliarsi la patente. Non so di chi stai parlando. Non so, vado, dai Anto, ti mangio una cosa e poi al limite se ci sei ci sentiamo, adesso chiudo perché c'è un po' di sonno. Ciao, buonanotte a tutti, ci sentiamo, buonanotte a tutti anche. Meglio, ciao, ciao, ciao, buonanotte. Ciao, ciao. Io ti scoccio, ti metto con l'asse isolante. Isolante è l'amico di Sassari, cambio. Ebbe Eugenio. Sono Pomponio, buonasera, ebbe. Allora, come andiamo? Ecco qua, lì, mentre faccio il lavoro. Quindi, non posso funzionare. Ah, ho capito. No, io mi ero fuori in giro. A fare, adesso bisogna mandare tutto in medica per fare le, come si chiama, le analisi, e quindi ho dovuto scendere giù da me, ho dovuto scendere da mia sorella a farmi fare tutte le, tutto via in medica, ha avuto le balle. Non lo so, adesso è tutto così, tutto tramite me e tutte cose, solo tu ci sei. Sto appena entrando io, c'è l'altro che sto appena entrando, vengo giù fino a una mezz'oretta fa la mia sorella, figurati. Sono fuori in testa, io non ho capito. Io sono stanco, stanco. Eh beh, se sei stanco è logico, non è che puoi stare sempre al lavoro. Oggi come so questo guai, poi mamma. Non hai visto. Siamo a posto. se invece fosse stato lavorando mi sarei divertito, a me l'avrebbe passata l'ora, non avrei avuto nessun problema a starmene a casa, a ingrassare, cazzo, incominciare a mangiare carne, di tutto, hai capito? E poi mi si è formata la pancia adesso, quindi io voglio controllarmi, non sia che magari c'è qualche cosa di strano, capito? Meglio prevenire che curare. Ma cosa non faccio? Cioè, non c'è problema, quando mai c'è qualcosa di brutto, beh, si è formata la pancia, che non fai nulla, hai visto, ma non lavori, sì. Cosa faccio? Faccio una dalla camera da letto a qui, dalla cucina ai roghi. E cosa vuoi lavorare? I laboratori sono tutti chiusi, ormai non lavora più nessuno. Hai capito? Io riparazioni non sto quasi neanche facendo, quindi cosa mi muovo a fare? Sono sempre seduto a un certo punto. Poi quando trovi gli amici ti bevi la birra, da una le passa a 5, 6, cosa del genere, cazzo, ogni lì a un certo punto ti viene già il coso, non è come prima, vedi prima sì, mi bevevo la birra, eccetera, mi muovevo, salivo dalle scale, scendevo, eccetera, eccetera. La pancetta l'ho sempre avuta io, hai capito? E quindi non era un problema, perché ero sempre in movimento, adesso con questo diavolo di Covid, hai capito, tra paure che ti mettono, eccetera, eccetera, poi oggi vengo a dirti, cazzo, che tutta quella cagata del vaccino che abbiamo fatto noi non serve un cazzo, hai capito, ci hanno preso per il culo, in pratica dobbiamo fare richiamarsi a novembre, perché è tipo un vaccino influenzale, hai capito, no? Quindi, ma se la tua, non ne faccio più, fatto il secondo vaccino, guarda, ci rimangono tutti a cagare, non me ne frega niente, se devo crepare, crepo, vaffanculo, ma non mi devo cazzo prendere i problemi che ti dà l'inizio del vaccino, perché incomincia a farti male, ti dà effetti strani, capito, e non è normale la cosa, ti prende proprio nei muscoli, i nervi, eccetera, eccetera. No, io non mi ho fatto la cena, non mi ricordo. Ho passato forse tutta la pandemia nei dai 6 mesi, nulla di sì. Non ho raggiù passato e non lo so nemmeno, ma senza mascherina, senza nulla, in modo di bassi giri in Tirrenia, ma non sono in Tirrenia, non sto infatti, no, non me ne faccio faccio, non frega niente, non mi da tutto nulla. E sai cos'è il problema? Purtroppo adesso con la questione del vaccino, se non lo fai perché sei a contatto con gli altri, rischi posto di lavoro, hai capito? Quello è il problema. Tutto lì, se uno sta lavorando, visto come hanno fatto i medici, come hanno fatto gli infermieri, li hanno ricattati, o ti fai il vaccino se no sei fuori dai coglioni, hanno detto, scusate, ti licenziamo, cazzo, ma dove vai? Purtroppo sei obbligato a farlo. E quindi io l'ho fatto più che altro perché se dovessero chiamarmi a lavorare, anche se ho con l'età che ho, almeno sono tranquillo, li sbatto in faccia la tessera che ci dovrebbero dare e io sono tranquillo, hai capito? Quando sono già stato ti porto il gas, c'è un metro da controllare. Quando vuoi tu c'è problema, ma che difetto fa perché? No, nessun difetto, una controllatina, niente di... Ma guardi, si è aperta la radio, il gas, capito? Ah, come quello che ho fatto la brava di Giampaolo, mi è arrivato 15 watt, quando sono sceso lì, mi ha detto, cosa stai facendo tu? Ha detto, fatti tu, gli ho detto, Giampaolo, pensa a mettermi la birra, gli ho detto, già ci penso io. Ho aperto un sacco di meco, ho giubiliato, con cacciavettino, tac, gli ho regolato il watt, la maletta, l'LC, una bomba era, ragazzi. Sì, ma se tu regoli fatto una maletta il potenziometro non ti serve più, il potenziometro di fatto non ti serve più, solo per abbassarli. No, se di solito ti dà intorno ai 7 watt, 6 watt l'apparecchio, però girando il trimmer te ne dà 15, capito? A malettone, poi c'è la regolazione esterna, già lo sai anche tu, da 15 scendi a, mi sembra, 5-6, adesso non mi ricordo bene la verità. L'LC dovevo mettere la manetta, perché si mette la manetta a quello e c'era, puoi mettere qualsiasi microfono amplificato e esce una bomba, esce come ho fatto io con questo e con l'altro. Controlli anche lo smitter, il segnale. Ah, vabbè, ti controllo anche lo smitter. E così vediamo i segnali come sono, se sono giusti o no. Ma se l'ho visto un coso, ho visto su Facebook. Un 140 le vuoi, 320 euro solo del 140. Dice, devo ripacca. Dice, non ho mai toccato nuovo 320 euro, e uno ha detto, io te lo do 200, l'altro ha detto, no, già va bene 320, l'ha detto. E tra me ha detto, ma perché non te lo, stavo per scrivere, ma perché non te lo sacchi in culo, cazzo, io, cazzo 320 euro. Ma non ti credi, cazzo, comprando chissà che cosa. Lui, detto, sono apparati di 30 anni fa e mette 320 euro, manco fosse oro, cazzo. Non mi dicete convintami. Non sono affari che si fanno pagare. Sono affari che si fanno pagare. Capito? Poi appunto ci sentiamo dopo che è pronto a cenare. Dai, ci sentiamo dopo. Pronto, lasciamo. Eia, d'accordo. No, io l'ultimo che avevo comprato, la verità, il 140, l'avevo pagato 250 euro. In più dentro c'era 4 rosmite, un accordatore d'antenna, che non so che cazzo l'ha costruito, figurati tu. Sembrava il pacco di Natale, sembrava. Però funzionava benissimo, funzionava bene, l'ho messo il MB più 4, era perfetto, non ha mai avuto problemi. 1250 euro si poteva prendere, non c'era mai un graffio. Figurati. Vabbè, ok, vai a cena, non c'è problema, ci sentiamo dopo, là. Lascialo andare a mangiare, se da poco fa a parlare, ma insomma. Va bene, vai, tra un po', vado, mangio e torno. Ti porto anche quello foto con il MB più 4, ho comprato un nuovo al negozio. Un bar in una puttanata, però, mi disse. Poi, Tino Muscolo, vabbè, come siamo messi? Cosa mi dici? Ciao, Roger, cosa ti dico? Aspettando, è aspettativa, credo che questa settimana sia la volta buona. Così ho sentito la figlia di Monica. No, allora, come si chiama? No, come si chiama? Non ricordo. Non ho capito. Va bene, va. Già, come facciamo qua? Quando vuoi, ho la mano io. Va bene, signori, io vado a farmi un po' le mani di boia. Ci sentiamo dopo nel caso, se ci siete. D'accordo, va bene, ciao, buona carica. Antonio, devo portare anche il 48, io mi cambierò lo smitter, ce l'hai, sì? Mi sembra che sì. Ciao, Luigi, a dopo, ci sentiamo. No, la 48. C'è lo smitter FM500S, se non mi ricordo male, giusto? Dovrebbe avere quello... Come avevi messo tu uno? È sempre quello che mi hai piazzato tu, se ti ricordi, quello nero mi avevi messo. Io lo vorrei originale, quindi è quello verde. C'è l'FM500S, sì. Devo guardare se c'ho... Più che altro ti serve, cioè devo aprire lo smitter, togliere quella cartina interna che c'è di colore nero e rosso e metterci quella verde dell'FM500S, è uguale. Insomma, se lo cambi direttamente è meglio, anche perché questo qua credo che non stia funzionando bene lo smitter, perlomeno, o vuoi regolato, non so, quando parli è basso, ma è basso, segnale basso, insomma lo proviamo, dai. Ok, quello che c'avevamo il tipo di smitter è morto, cazzo, morto 2 settimane fa, la verità non so che ci abbia tutto in mano, solo che avete trovato gli smitter che volevi, quanti ne volevi ti avete trovato di quegli smitter, che lui ne aveva parecchi, la prigione c'aveva anche lineari. degli avi, trasmettitori FM, trasmettitori per TV, di tutto ci aveva a casa. Adesso non so chi c'è in mano tutto, bisogna che mi informo. Se riesco a trovare il cugino, che era lui, se mi apre il laboratorio giù via Civitavecchia, ci vado, mi porto via un po' di roba. Tanto c'è, c'è buttare senz'altro. Hai capito? Chi c'è in mano tutto? C'era valvole, di tutto va via, transistono, eccetera, eccetera. Cazzo. Adesso non mi ricordo il cognome del cugino, mi dice vado al moto e mi faccio una passeggiata. Riesco a beccarlo, se c'è mano tutto lui, io ho fatto 13. Hai capito? Sì, provo a chiedere, dai. So che coordinando su internet, ma ci vuole un po' a corrovenire, bisogna essere un truppi anche, perché io ne ho due gemelli, no? Però questo è quello classico che 120 canali, che va per macchina e va benissimo, solo che ha problemi di smitter. Ti ricordi che mi avevi messo la mascherina con le luci LED che l'avevo data a Gianni del Perù? Già me lo ricordo. Già me lo ricordo. La tua mascherina, la mascherina qualcosa a LED, cazzo, mi ha creato problemi, perché non avevo mai pensato la verità. Già ho capito qual è il cosa che mi stai dicendo. Lo smitter vuole cambiare. Quando è che abbiamo 10 minuti ci sentiamo e te lo porto. Quello sono fatta voi e basta. Sì, io va bene. Non c'è problema, adesso cerco di vedere un po' di recuperare il cugino di quello, se riesco a trovarlo, perché se c'è in mano tutto lui sono a posto, se c'è in mano invece cazzo la cognata all'altro lato dove è Marco, lascia perdere, è meglio che rimanga tutto così com'è, se non aggiungano i valori mancanti. In quella partita non c'è uno strano, figurati. Adesso vediamo se il cugino, all'altro c'erano anche i vlogs da pensare a baracchino, potremmo durare tranquillamente a mani libere, c'era lo spinotto a 4, poi gli dovevi mettere il microfono, quello che posso dire, da tavolo, mi. E lui, cioè il baracchino andava da solo, poi c'aveva antenne per baracchino di quelle, modello antico, te la ricordi? C'aveva di quello una quindicina di quelle antenne lì, poi con lo stilo, in acciaio, eccetera, eccetera. C'aveva un lineare, uno spedisci TE, trasmettitori FM e altre cose varie, c'aveva una direttiva doppia, c'aveva. Per rematore, c'aveva doppio attacco PL. È tutto da vedere, adesso vediamo un po', secondo se riesco a recuperare la persona giusta, ti chiamo e ci facciamo, andiamo di lì, mi faccio aprire il magazzino, ci facciamo un giro e ti prendi quello che ti serve, tanto se soltanto se no ce lo butta e te lo porti via lì. Eia, tu chiamami, andiamo assieme, quelli chiamano macchina, quello che serve a te, quello serve a me, andiamo e facciamo, non c'è problema. Avvisami qualche giorno prima, mi dici vabbè, domani possiamo andare, oppure una sera, quando sono al lavoro. Non c'è problema con me. Mi con Walter già si conoscono bene, quindi può chiedere anche a Walter, magari Walter ti può aiutare, mi intervistava che ti dica. Cazzo, io ci ho abitato a fianco al cugino, ma mi ricordo che si chiamava Calvino, ma non mi ricordo il cognome. È passato un bel tempo, è passato. Vabbè, adesso vedo di vedere un pochettino. Se è mano sua, la roba che c'ha lì in, come si chiama, invece Civitavecchia, la recuperiamo, anche quella che c'è a Santa Maria, per dire. C'è anche il trasmettitore, c'era lineare FM, cioè FM, VHF, ce ne avevo da uno, cazzo, ci avevo dato io 300 watt era, per pompe radio, c'aveva un sacco di punti radio, c'aveva buttate lì, per V, per U. Adesso vedo un po' di, se riesco a trovare il cugino, faccio un giro al monte, domani sera, dopo le 5 e mezzo ho sentato lui esce alle 6 dal cantiere, vediamo se riesco a recuperarlo, glielo chiedo, se c'è tutto in mano lui va bene, ma se c'è in mano il fratello e la cognata prova a virare, bisogna aspettare, io gli metto il foglietto al limite, se vuole fare un tampone con le roba elettronica che deve buttare, mi faccio, faccio fare una telefonata e poi vediamo un po'. Vedi, no, non c'è problema, Antonio. Organizzati, poi vediamo cosa fare. Ambabex, io devo uscire un attimino fuori che sennò mia moglie ha steso la roba al lavoro, però se l'ha dimenticata, la devo ritirare prima che scenda l'umido, magari domani tocca mettere una bagnata. Non so, poi ci vuoi aspettare, il tempo di ritirarla, poi già riprendo. Io sono qua, là, ti aspetto qua, non c'è problema. Sono qua all'ascolto, fate tutto quello che vuoi tranquillo, non ti preoccupare. Tanto sto digerendo, ho appena cenato. Sto digerendo anch'io, ma ho appena pranzato, non cenato, perché non ceno io no. Sto ancora digerendo lui il pranzo, ho qualcosa sullo stomaco, toccherà prendere un altro diger. Vabbè, a dopo. E io, d'accordo, ok. Eccomi qua, arrivato, là. Tutto fatto? E quattro cose erano, però sono voluto uscire fuori, sono appena umide, ma se le lascio tutta la notte, si prendono ancora l'umido. Ebbene, questo tu già che non sei in discesa, quindi logico che non è come ci stanno. Capito, quindi lì l'umidità è già la paura di notte. Me. Vabbè, ho messo roba così da ritirare pantaloni, magliette, questa roba qua, capito? Quindi a domani già sono asciutti, adesso ne prendo un altro paio dal cassetto. Dovresti prenderti una lavasciuga, dovresti comprarti. La metti vicino alla lavatrice, non vuoi altro che togliere fuori la roba dalla lavatrice, mettercela in lavanda a asciugare e poi prendi la stiri. Ma guarda, sinceramente la sto prendendo l'inverno scorso e mia moglie non ha voluto, io non la stavo già comprando, addirittura volevo fare una sorta di lavanderia dove c'è l'entrata, la seconda entrata della casa, no? Che è un dovrebbe uscire anche, insomma, non grandissimo, però credo che sia 3 metri per 2,50, quindi una piccola lavanderia sarebbe uscita. Praticamente lavatrice lì, lavasciugarie, ma no, non fare niente, già va bene così. Vabbè, contenta tu. Va, già vado a voluto comprarsela, perché tra la roba del giampiero, roba dei bambini, a stenderla, capito, la maggior parte delle ti ricordi di questo inverno è mezza estate, era sempre umido, o pioveva, o c'era umido, eccetera, eccetera, e quindi no, non riusciva a cavare nei piedi. Allora si è pigliato la lavasciuga, adesso è tranquilla. Sì, ma vabbè, adesso vediamo, aspettiamo adesso al prossimo inverno, se riesco nuovamente a convincerla, e sono già avanti così. Beh, a un certo punto dico bene fare comprartela, ma intanto, secondo me, a me non devi stenderla fuori, non devi stare al coso, hai capito? Se fa un nuovo inverno che ha fatto l'anno scorso, dico bene comprate, la va a fare un culo, se la biglia in culo. E tu dici di piovendo, o piove o vento, o vento o pioggia, eccetera, eccetera. Poi la neve, cioè la nuova neve, e poi quella, poi quell'altra. Là, se tutti i giorni acqua, almeno adesso un pochettino stiamo migliorando, ma c'è anche acqua questi giorni, quindi l'hai visto che non è stabile il tempo, quindi a un certo punto sono cambiate le stagioni eccetera eccetera, più stiamo andando più stiamo peggiorando, a un certo punto c'è come comprare una cosa del genere, che io qua non c'ho posto, solo l'avrei presa, hai capito? Anche perché la terrazzina è piccolina, quindi mi tocca stendere dentro casa e quando accendi la stufa ti fa più umido che altro, ed è peggio per l'appartamento, hai capito? E quindi adesso vediamo un pochettino, in seguito secondo me ve la prendo. Allora, aspettiamo, solo qua non c'è problema, siamo qui per questo. Ah beh, quello sì, io lo grido. Speriamo che riprendano questi lavori adesso, almeno cazzo si rientra a lavorare, almeno a fare qualche cosa. Tutto l'anno fermi, cazzo, fermi o a saltelli, o a saltelli o fermi. Ma io vabbè, grazie a Dio non mi posso lamentare, noi non ci siamo fermati niente, anzi, noi dopo qualche momento di stand by che invece, a lavorare. Quindi non ho sentito, mi dispiace un po' per le attività, giustamente. Vabbè, quello c'è vero. Quindi, ma adesso per te sono fatto il furbo, già lo sai anche tu. Che lavorava nella ristorazione, eccetera, eccetera, che ha fatto i saltelli, eccetera. E così a un certo punto dice, beh, figliate del culo a principale, vi faccio la LASPI e io non rientro a lavorare finché non finisce la LASPI. Quando finisce la LASPI faccio il reddito di cittadinanza, te la prendi in culo lo stesso, perché intanto verrà anche adesso. Questo inverno siamo alla stessa cosa dell'inverno scorso. Tale uguale, hai visto a Londra? Boris Johnson contento, siamo tutti a posto, poi siamo stati senza mascherina, siamo stati privi, abbiamo speso un sacco di milioni, eccetera, eccetera, crack, è finito mezzo la merda di nuovo, è finito. Stanno salendo di nuovo, hai capito? Quindi in pratica si è buttato in culo la zona, come se si è messo il dito in culo, dice no, la prossima volta sono dito non dico niente. Anche se ho fatto le vaccinazioni non devo aprire per niente, perché? Perché ci sono le varianti, è logico che una è peggio dell'altra. No. Io sono così, no. Sono anche un po' incredulo in questa. Però ho avuto degli amici che erano avuto e c'è chi dice una semplice influenza, c'è chi dice un po' di dolore alle ossa, però niente di preoccupante, ma è la prova che è passata, non mi sono neanche accorto, non è che io sinceramente non sono per i vaccini, quindi non so cosa dirti, Antonio, sono antivaccinale io. Ma io me lo sono fatto e ti posso dire che in pratica prima il giorno che te lo fanno non senti un cazzo, no, in realtà, ma l'indomani comincia a seccarti, a me mi ha seccato la gamba tutto, dal culo sino al piede, dal culo, dopo di quello abbassava quello e dopo due giorni mi sono trovato nel letto, mi stavo così riposando, ho mangiato tranquillo eccetera eccetera, tutto un tratto mi viene questo mal di denti forte, sembrava ci avesse un chiodo, ho voluto prendermi lo Spiridol e farmi di sciacqui qualcosa, e c'avevo tutta la gengiva rossa che non era idea, cazzo. Dolori alle mani, tipo crampi, una cosa del genere, hai capito? Adesso speriamo che sia finita questa storia, cazzo nel coso, cazzo. Me l'ha fatto per una settimana, me l'ha fatta a me. E ho sentito il giorno prima, ma il domani, cazzo, mamma mia. Anche Giovanna la stessa cosa. Giovanna invece si è sdraiata a letto, era tranquilla, si è coricata, non aveva tirato, si è alzata un dolore alla schiena, ha detto, viciatore, non te ne ricordare, ti avevo avvisato, ho detto Giovanna. Fatto il vaccino, ti vengono tutti i dolori, cazzo, poi se sembra che c'era i sintomi della febbre, ma non c'è febbre, capito? Perché me la sono isolata? 36,7, cazzo, figurati. Mi sentivo come se avessi sintomi della febbre, cazzo. Va bene, te ho fatto quel problemoni, per dire che a Padreano adesso hanno fatto, grazie a Dio non hanno avuto niente, né sintomi né niente, adesso vediamo, dovremo fare il richiamo, ma no, un po' più là adesso, non so, è persona a persona, Antonello, non è che c'è quello che magari ha qualche piccolo disturbino del fisico, magari il vaccino glielo accentua, capito? Quindi no, non so cosa dire. Io sinceramente se non sono costretto non mi interessa farlo. E anche io più che altro l'ho fatto per la studia dell'ufficio di collocamento, capito? Perché adesso se quando ti chiamano per dire se non c'è la carta, quella che devono dare, un cazzo ci va a lavorare, capito? Ti ha tolto il diritto di cittadinanza e ce l'ho in culo. E quindi ho dovuto farlo per forza. Tutto invece Simona l'ha fatto, ma Simona l'ha gonfiato le mani, l'ha gonfiato proprio. Tu devi vedere cazzo le mani che c'ha lì, te le ricordi, l'anello risultava sotto e la pelle quasi sopra risultava, proprio l'ha fatto perché lei è fragile come persona, capito? Poi è stata più di una settimana dolori, le gambe, le braccia, eccetera, eccetera. Se vuole proprio fragile, lui ha fatto il Pfizer, io ho fatto invece Moderna, capito? Se faccio la salvezza che ci rimango secco io, perché poi va sicuro. Ma anche questo fatto di, non lo so, di dire che un vaccino è meglio dell'altro, non lo so, molte volte l'informazione può essere anche controproducente per quello che si dice. Mi sto zitto perché magari le mie idee non sono ben accette da altre persone. Comunque io rimango della mia idea, gli altri che se ne vanno a fottere. Vabbè, se non te lo chiedo di farlo non è fare. Tino, non è fare. Se non te lo chiedo la vita non è fare. Il discorso è questo. Se te dovessero dire si faccia il vaccino, se no non possiamo assumerla, dice ascolti, siccome te lo fanno le posso lavorare, sono obbligati a farlo, capito? Dici guarda, vuoi fare Pfizer o se no Moderna, dici, la stazione che se lo faccia lei, perché va a giocare al cribba, perché grazie a Dio di Pfizer ne è morto solamente uno e basta. Invece di Pfizer ne sono morti quasi 120 ne sono morti. Figurati. Ma vabbè, io credo che se ti avevano fatto firmare un qualcosa prima di farti il vaccino, no? Loro non si assumono nessun tipo di cosa, quindi perché non ti assumi la responsabilità di quello che mi stai facendo? E non fai, cioè volevo dire AstraZeneca sono molti 120. Beh, perché lo sanno che il vaccino è sperimentale, capito? Adesso, siccome per i vaccini ci vogliono 8 anni a farli come si deve, quindi adesso li stanno ammodernando piano piano, hai capito? A un certo punto poi adesso c'è la questione della variante, devono provare, hai capito? Eccetera eccetera, il sistema è quello lì. Non so se c'è dato acqua, cosa che te ne so, oppure soluzione fisiologica. Fatto sta che la storia è quella. Comunque loro già se li fanno pagare, hai visto? Una ditta che è nata neanche 3 mesi che diciamo, come per dire, ha versato un tot di soldi, adesso ha triplicato le, hai capito? Gli incassi. E quindi cosa si fanno dei soldi? Basta, come si fa in borsa, no? Tu ci investiamo, per dire, investo 1.000 euro in questa ditta, se tutto va bene, cazzo, io aspetto un anno e mezzo, da 1.000 euro ne ricavo 50.000, tanto per dire, perché le azioni aumentano, capito? Urbano, in pratica lui va, se è togli, se li tira via e gli abbia il colore che aveva tutti. Speriamo che questa cosa finisca, cazzo, se no se torniamo come l'anno scorso, a settembre siamo fregati. Ohia, ce la prendiamo buona già, a trovare l'uovo a chiudere, cazzo, lì, già non aperte così adesso, le pizzerie e cose del genere. Se li chiudono a settembre, guarda, vengono i cinesi e si comprano tutto qua, te lo dico io noi. A un certo punto si comprano tutto. Sì, vabbè, non metto in dubbio che ci sia un business dietro che la metta a basso. C'è qualcuno che vuole entrare? Vabbè, c'è stata una piccola sovrapposizione con un bit. Siamo qua. Chi vuole entrare, entri. Apriamo le porte, chiudere i portoni. Apriamo le porte. Per carità. Vabbè, Antonio, dai, che per ti dica. Andiamo proprio la roba per domani adesso, dai. Sacca e quant'altro, e poi vado a schiacciare un pisolino fino alle 5.45, dopodiché ne vado a fare. Ah, domani devi entrare a lavorare allora. Sì. Domani si lavora, poi cosa c'è? Mercoledì di festa, così è. Allora, lunedì è 31, martedì è 1, mercoledì è 2, sì, mercoledì è festa. Vabbè, ci prendiamo un giorno di riposo. E non posso nulla, non mi frega niente. E se per questo puoi andare a calmare. Grazie a Dio, almeno una volta, sappiate il gelato. Te ne vai al mare, te ne vai a posizione dentro a casa, a cucinare salsiccione, bistecche, che ti fanno male al culo e seroro. E vabbè, come se non muore di rampa, muore il drone. Quindi, è così. Ma buono, vediamo, aggiorniamoci, fammi sapere se sei qualche cosa, facciamo una bassa e poi andiamo. Ok, ciao, ti saluto, un abbraccio, saluto a Simone. D'accordo, adesso domani mi informo un pochettino, vediamo cosa mi dice, faccio un giro di al monte, se c'è il cugino dopo le 6:30 a casa sua, glielo chiedo e vediamo che c'è mano la roba, se c'è mano la roba lui, che lui in pratica, che lui ha fatto il testamento, ha lasciato tutto al cugino, siamo a posto. Ma se poco a poco deve esserci cazzo la cognata e l'altro fratello, non ne vale manco la pena, se la abbiano in culo tutti e due. Adesso già mi informo domani. Va bene, ciao, ciao, com'è? E ciao, ciao.